Ti piacciono i colori dell'autunno? Se ti piace stare al fuoco l'inverno, siediti qui accanto, ti racconto. Vieni più vicino, vienimi accanto. Era molto freddo da molto tempo. La gente cercava ovunque, cercava il caldo. Un posto per custodire, un posto per riparare, ma non c'era neanche un'ombra, né di luce né di carbone. La gente aveva freddo, aveva un freddo cane. Andarono nel bosco a tagliare legna, a tagliare, ma dopo qualche giorno il gelo era ancora neve e non c'era più neanche un albero da bruciare. Allora, presi dal panico, cominciarono a tremare. Il ghiaccio penetrava nelle ossa, nelle vene. L'inverno era più lungo da sopportare. Restava solo un modo per potersi salvare. Siediti qui accanto, ti racconto. Vieni più vicino, vienimi accanto. Precipitava il tempo, sembrava fermo, bloccato sotto lo zero, sotto il fuoco del vento. Allora, disperati, cercarono qualcuno che potesse dargli un po' d'aria, dargli un minimo di respiro. Sapevano che in paese c'era un uomo che viveva lontano dalle tempeste, lontano da ogni bufera. Andarono a cercarlo e gli chiesero consiglio. Lui sorrise mentre abbracciava il suo gatto, il suo coniglio. Se volete riscaldarvi, dovete solo andare dietro quella cascina, ci troverete ogni bene. Andarono e trovarono del fieno da bruciare, un fieno che gli permise l'inverno di passare. Adesso mi dirai, ma cosa rima questa storia? Perché mi hai raccontato questa favola, questa memoria? L'uomo rappresenta il sogno, le più belle cose a cui aspiri, il fieno, il tuo cuore, che darà luce ai tuoi pensieri.